là, je suis au niveau de la France, là, en avant. Purtroppo avevo un incendio grande, te l'ho detto con un po'. Potevano mettere fuoco a qualcosa a casa, al centro storico, dove c'è la fogna aperta. Dai, mi ha il benzina in buca. Tutte le cantine allagate della chiesa ci sono. Sono un po' di sangue, mi so. Tore, tore, facci sognare, tore. Ah, c'era fuoco, c'è. In gola, in casa. Ah, otto, due mi viene a uscire, hanno fatto un poco manno. Deve essere per cucinare me la carne. Venire a barbecue, partite lì. Segno presente che caiga, a birra. Popò è troppo, io ce l'ho vedo dalla finestra, ragazza, non quel grande come il cigno, confermi Popò. Che grande, grande. Figurati. A Valtieri stavamo usando con un amico mio la salvatrice calottale, ho visto quando parli di quando stai salvatune, insomma sarebbe in mezzo alla spagna, dovrebbe vedere come ha pianto fuoco subito. Con la scarpa ho dovuto spegnerlo. Io come via, l'ha fatto. Cazzo, si liquida della salvatrice, hai tanto, no? Lo stesso per il fuoco, con la temperatura, voi, subito va. Subito la stessa. Molto bello, mi sa Zindri, appena tu ricco, sa femmina vicino a Australia, che ti fai su e ti fa raggiungere. Infatti non si faccia in culo. Allora so che Mocuni è andato sempre nelle vie di mezzo, mi sa fatto. Bello. Ma dove vai andare le seconde? Da voi. Chi è che sta Giuseppe? Ehi, da adesso, vedo è Popò. Non è così, no, è che c'è un problema, adesso da quando, se tu guardi a canale 5, tutti i frusci sono, cazzo. Sì, a canale 5, dimmi, ma noi non siamo di canale 5, no? Noi siamo canale 1 e 2. Sto periodo non più questo per me. Tutti i film che stanno facendo vedere in televisione, cazzo. Da quando sono fatto il culo a coso a Guido Guascio di cosa, adesso non mi ricordo come si chiama. Tutti i culi sono in televisione. La televisione la faccio vedere, fotografare, filmare. Ma se lo smetta di Dio, ma di quello verissimo è, cioè quello che non è verissimo, è falsissimo, cazzo, il programma. Sì, non è come benissimo. Tutti i fuochi di televisione che ci stiamo parlando, per io Bertrano che. Allora, vabbè, più che di questi qui ormai non mettono in televisione a lavorare adesso. Ma che poi la buttare una maglia, voi non si capisce niente. Meno di povero smattone, la butta. Devo, sono d'accordo, tutti i consumini, Tony, ho fatto. Bello, cosa mi interessa a me di quegli altri, Popò? Tu mi inventa. Non lo credo, Giallo. A me già mi piace la coda di violino. Oh, yeah. Sarà la malaria con l'uscia, Popò. Ah beh, tu gusta che ha la malattia però mi tunga, dottore. Sì, da voi cazzo, allora che dare comincia a ti pompare da voi. La specie di scrivere. Ah, telefono. Ciao, la telefono sono di scrivere. La spasimante. Ciao, quello c'è che paura che sta telefonando. Non parlate male di me, io non sono froscio, no, sono paraculo. Ah, io come mi immagino in mare, ragazzi, su quando mi sono letto, salve. Caldo, sì. Ma in mare vanno solo, capito, è una cosa. Quando sono sbagliati si mettono a culo sopra, perché quel pezzo di sotto comincia a fare i buchi. Sì, quando ero più giovincello, ragazzi, mi ammetto, uie. Cazzo, ne trovi in acqua, è scivo, eh. Roppa di le maggi a cazzo sta caiana, più da rapido, cazzo. Non so. Mio padre, lui che è andato bene, a volte c'è la pasporca, poi c'è... ne passa uno, comincia a mangiare sabbia, pane e sabbia. Guarda, dici una cosa, tu dico quello che è sbrondo e ti devi parlare perché comincia a guardarti la 25, capito? Si incanta, Rocca, come se non avessi visto mai nulla. Oh, io adesso mi spiace, non ci ho dormito. Ma giura, me ne vado al scogliere, attrezzatura subo e basta, in alba, boh. Roba di darci dalla mattina fino a sera, ma adesso solo per mangiare. Ah, se pesca per mangiare a Guglia, così è bello. Mi spiace, no? Di tutto di più tu, mamma mia. No, spiace, mi è scrivo. Tempo ci ha guardato adesso. Lugazzino, non si può fissare. Non mi piace veramente. Piace a me, infatti non ci fanno quasi mai spiace io. Ehi, buon po', dai. Bisogna sapere che a che parte, Uscio, facciamo qualche serattina all'aperto. Mi rarrivo. Bisogna. E per omena. Ha bisogno. A cosa arresto? Ma io sono entrato qui. Ehi, qualche. Prendi, Popo. Cazzo, sempre di birra stai parlando, Popo. Come fa di birra? La fa tantone, vedo che si vuole aprire un circolo già a pantalone. Capito? Da una parte la birra, la tantone si mette a suonare e poi c'è la ragazza che gli fa pure la palla al vento. Ah, andrà bene, andrà bene. Ah, ma giurista, non mi viene più, non mi voglio più come prima dalla rumpa, ragazzi. Ehi, da, mi hanno sentito tutto, da, ehi. Si può andare a funzionare sempre da prima, guarda. Guscio, se male che non funziona, to. Ma su viso l'avete con la pubblicità della tipa, che ne esce, quindi facciano proprio di direzione. Ah, e i due? C'è visione. E noi che ti accadate? Oh, non è vero, mamma. No, non ha pulito, no? Sì, pare che vuoi. Paga, non va. Ma cosa di lui fai, ragazzi? Tutta sta morte. Ha ragione. E prendi, Bobbù, facci sognare, Bobbunio. Raccontaci qualcosa di bello, Bobbunio. Vediamo che ti racconti, Bobbù. Caldo, Cesti, caldo. Guarda, l'incendio l'hanno spento, eh. Ma già già vado io lì, al centro storico, me lo faccio spegnere l'incendio. Ah, addirittura. E che arriva un altro adesso, i cani vanno in calore. E le cagne? Le cagnette, eh. Hai detto. Aspetta l'incendio, guarda. Sicuramente da quel culo è casi cosa, no? Che ia, ti do cosa, la io ho la tua botte giusta, ah, poi dopo la pompa si attacca la pompa. Oh, yeah. No, poco ho conosciuto a Elisabetta, la paesana nostra, la cittadina d'Ottavola. Grazie del vino. Come magari si mette in mano un saluto. Sentura, e non era conosciuta? Sì, no. No, ma che per salutarsi. Ma se volevo una volta che mi più punti. Ma io sei abito, una volta diventano vitti, poi... O poi si dimentica della cosa santa. Che non ti preoccupare, finita quella di Cruglio si prende quella di qualche negro. Non si demoralizza mai un popolo. Oh no, no, to. Proprio guarda, Pompone non si demoralizza mai, Scusa, niente. Lo stesso sardo che fai da sopra il tiso. Romeo. Così cosa c'è? Anzi, l'ucraniano parla anche il francese. Ne avvici? Romeo, sì. Ciao Luca, ciao a tutti. Aspetta un attimo, buonasera a tutti. Sembra fredda. Come di vostro gruppo Fusotto. Attenzione mon ami, attenzione mon ami, se cutra la Sardegna, la vita c'è salì. Nico Bico. Passiamo un cazzone di cuccio, davamo, andata ad andare in culo, amici. My name is Luca, my name is Luca, Italia, Nord Sardegna, ok? Buonasera comunque, dai. Non è fa caldo, vuole farti, eh? Ne fa, Luca, ne fa. Ne fa, madonna. Beh, pompo. Scappa, dimmi. Qui mi pare che a posto di spegnere l'incendio sono buoni di buco dopo. Ah, già mi senti, pompo, sì. Eia, Luca, ciao. Adesso non mi sentivi, ero preoccupato. Sì, sento, te l'ho pensato poco fa. Modi chiudi a te, ma arriverò al 40. Forte. Qualche supposto in più che l'ha dato. Allora, chi l'ha vista? Vabbè, dai, ragazzo, io vi saluto, dai. A più dopo, se coincide, ciao, Tore. Bene ascoltato. Ciao, Pomponio e ciao, Lucariello, dai. Tutto a dopo, se coincide. Ciao, ciao. Ah, perché ci sentiamo a dopo. Ah, c'è passi sì, dai, anzi pezzo a modulazione, mi sento domani. Ma se devi fare un mocchetto rosa. Ah, va dopo, ciao ciao. E come fa? Ma che ti lascia, c'è il micro. Arriva 9:20 questo uomo. Sta chiamando, vuole che gli rispondiamo, solo che è francese io. A me viene da poco. Fallo. Un petit peu comme dès qu'ils embrouillent. Voilà, toi le micro. Et comprendiamo comme ça. Si comprende comme ça. Oui, tout à fait, là, ça. T'entends bien, mais par contre, tu peux me répéter TH, là, j'ai pas bien dit TH en ce moment pour toi, là. J'ai parlé passé, si vous chiez comme quoi. Va bene, dai, a più dopo se coincide, ragazzoni. Ciao, ciao. Ma, autrement dit, ça passe bien quand même, hein. Ok, pour ça, mais c'est quoi, c'est un petit séjour pour toi saisonnier, hein? Ça, au niveau du mille pattes, là, à ton micro.